Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Storpi, atmosfere terse e sterili bazar, taxisti, nomadi, cammellieri, autisti, ascoltano la radio e sanno che tempo fa. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan, che dal marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva antispecista secondo la quale l'umano non ha più diritti né più valore di tutti gli altri viventi non umani. Per questa redazione ogni animale, ogni vivente è meritevole dello stesso rispetto. E questa è una puntata speciale perché la trasmissione Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan, la cui redazione è composta da soli attivisti e attiviste diversamente impegnati nella causa antispecista, compie 10 anni. In 10 anni non ci siamo mai fermati, siamo andati in onda grazie a emittenti più piccole e più grandi in regioni diverse, in FM e nel web. La trasmissione è prodotta a titolo volontario e viene messa a disposizione di qualsiasi radio ne faccia richiesta. I podcast di tutte le nostre puntate precedenti, assieme a tanti materiali, interviste, ricette e approfondimenti speciali, potete trovarli nel nostro blog restiamoanimali.it. In questa puntata parleremo dell'impatto della guerra in Ucraina sulla questione animale, commenteremo diversi aspetti della tragica situazione in corso, parleremo di un libro antispecista di fotografie molto speciali intitolato Scatti da cane di un'artista siciliana. Voleremo poi in Namibia, dove 20 elefanti sono stati messi all'asta e spediti in Arabia Saudita come se fossero oggetti. E concluderemo in Abruzzo con la cattura di Juan Carrito, un orso colpevole di essere troppo confidente. Non mancheranno anche in questa puntata una ricetta cruelty free e tanta buona musica, a cura del nostro Gabriele Palloni. In Ucraina sta evidenziando la crescente sensibilità delle famiglie e dei media verso la questione animale. Abbiamo visto tutti le immagini dei profughi che arrivano in Polonia, in Moldavia e in altri paesi europei portandosi dietro i cani e i gatti di casa. Non era scontato che accadesse e probabilmente è un comportamento ancora minoritario, ma di fatto queste immagini sono nelle prime pagine e se questo genere di attenzione è possibile sotto le bombe, fa ancora più impressione l'idea che gli animali domestici da noi ogni anno vengano abbandonati semplicemente perché c'è il periodo delle ferie estive. Ma ci sono altri episodi molto meno edificanti che escono dalle cronache, come per esempio la morte di alcune volontarie animaliste. La prima che vogliamo ricordare è Anastasia Yalanskaya, giovane volontaria, 26enne, ucraina, morta in strada mentre cercava di raggiungere un rifugio per animali fuori da Kiev, dove da giorni i volontari, a causa della situazione, non erano riusciti a recarsi per portare da mangiare agli animali. Insieme ad altri 2 volontari, Anastasia ha deciso di rischiare, ha caricato in auto le provviste e si è messa in viaggio per percorrere la 30 chilometri necessari per arrivare al rifugio. Purtroppo non è mai arrivata a destinazione. Colpita da un'arma da fuoco è morta sul colpo. Non sappiamo se i cani hanno ricevuto il cibo di cui avevano bisogno. Dopo la giovane Anastasia, è la volta di Alexandra Polishuk, detta Sasha, morta nella sua casa bombardata. Una donna che aveva scelto di rimanere in Ucraina per occuparsi di animali in difficoltà. Avrebbe potuto scappare, ma ha voluto rimanere a casa sua, a Kherson, nell'Ucraina meridionale, insieme al suo cane, impegnata come sempre ad aiutare i rifugi della sua zona. Due giorni prima della sua morte scriveva su Facebook: «Di ritorno da una passeggiata con i cani. Le case limitrofe sono senza vetri, molte senza tetto e recinzioni. Un tubo del gas ad alta pressione è saltato, fili elettrici strappati. I ponti che portano a Odessa sono bruciati. Alla periferia di Antonovka una capra sta urlando senza speranza, istericamente. Sembra tutto come nei film dell'Apocalisse. L'incubo non è finito e ci fa impazzire con la sua realtà. Il sole tanto atteso sta sorgendo». Sasha lascia due orfani oltre ai tanti cani di cui si prendeva cura. Deve essere ricordata come uno dei tanti eroi silenziosi che non prendono un'arma in mano, ma fanno di tutto per difendere la pace, aiutando gli altri contro il dolore portato dalla guerra. Radio e sezioni conducono e magneticamente azioni, forse perché radio e sezioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sezioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e sezioni si nutrono con autentiche pulsazioni. Un altro aspetto evidenziato dalla guerra è l'assurdità degli zoo e degli ecoparchi, e direi di tutte le gabbie, di tutti i recinti in generale, che in queste situazioni diventa ancora più evidente. Fra le tante tragedie c'è quella dell'Eco Park, dove due persone che erano andate a nutrire gli animali ospiti del parco sono state uccise. Il direttore del Feldman Eco Park di Kiev, Vitaly Ilchenko, ha diffuso la tragica notizia della scomparsa di due volontari rimasti uccisi mentre si adoperavano per nutrire gli animali dello zoo, che sono ormai allo stremo. Siamo consapevoli, ha continuato, che rispetto a quanto sta accadendo attualmente in Ucraina, quello del nostro parco può sembrare un problema più piccolo, ma è proprio nella soluzione di problemi piccoli che consiste la nostra vittoria. Il Feldman Eco Park, con i suoi oltre 2000 animali, era uno dei parchi più frequentati della città, colpito in più occasioni dalla furia della guerra. Dopo essere riuscito a far trasferire i grandi felini allo zoo polacco di Poznan, sta cercando di salvare la vita delle altre centinaia di animali rimasti. Dalla struttura dicono di avere cibo solo per altri 10 giorni. Agli elefanti e alle bestie più grosse vengono somministrati sedativi per tenerli calmi durante le esplosioni. Altri animali sono stati spostati in recinti interni o sotterranei. Stiamo facendo il possibile per salvare gli animali, evitando di mettere in pericolo l'uomo, ha sottolineato il direttore del parco. Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio Baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse. Ed è interessante anche la notizia del trasferimento degli animali dallo zoo di Kiev a quello di Poznan in Polonia. Una temeraria missione impossibile per salvare tigri, leoni, licaoni e scimmie, affinché non morissero di fame e bombe. Un gruppo di volontari ha organizzato questa incredibile evacuazione. Una mini colonna di tir e di van allestita e coordinata da Bologna, dall'associazione italiana Salviamo gli Orsi della Luna, è riuscita a trarre in salvo 6 leoni, 4 tigri, un cane selvatico africano e una scimmia cappuccina, tutti ospiti di un centro protetto, il Save Wild Fund. Animali il cui destino, se non fosse scattato questo coraggioso piano di fuga, sarebbe stato quello della morte per fame o per cannoneggiamenti. Non è stato però possibile portare via tutti gli animali da Kiev per mancanza di spazio, e così è stata presa la difficile decisione di scegliere quali potevano salvarsi e quali invece sarebbero rimasti indietro. Jumping, Ancora guerra, ancora Ucraina, ancora ore drammatiche, quelle che sta vivendo il volontario italiano Andrea Cisternino, un milanese ex fotografo di moda che nel suo rifugio, che si chiama Rifugio Italia, nei dintorni di Kiev, ospita 400 animali, soprattutto cani salvati dal randagismo. L'animalista è determinato a restare per non far morire di fame i suoi trovatelli, ma fa sapere che la situazione sta precipitando. Scarseggia il cibo per gli umani, quindi figuriamoci il mangime per gli animali. Una soluzione, suggerisce Andrea Cisternino, sarebbe quella di un corridoio umanitario che potrebbe consentire il via di un'altra arca di Noè, di un'altra colonna di camion, naturalmente questa volta di dimensioni maggiori, e che potrebbe consentire il salvataggio sia dei suoi cani, sia di altri animali custoditi allo zoo di Kiev. Dopo aver parlato dell'impatto della guerra sulla vita di umani e non umani, vi proponiamo una tregua. Una tregua ristoratrice attraverso una proposta culturale che ci piace, che arriva dalla Sicilia. Il servizio è a cura dei Troglodita Tribe, autori del libro Chiudiamo i canili, Ortica editrice. With extreme prejudice, I try to terminate our mission. This is Radio Class, consider your position. Poco dopo aver pubblicato il nostro libro Chiudiamo i canili, edito da Ortica Editrice, abbiamo conosciuto nella zona di Acate, in provincia di Ragusa, Maria Mezzasalma, educatrice cinofila e docente SIWA, che ha conseguito il titolo di referee in zoantropologia assistenziale. Maria Mezzasalma è anche un artista che ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Firenze, ha vissuto e lavorato a Barcellona e a Parigi. Nel 2019, per sostenere e finanziare il suo progetto La Collina dei Cani, ha realizzato, insieme ai cani e alle cane Coco, Zazzi e Yoyo, un libro molto molto particolare che si intitola Scatti da cane. È un libro fotografico, dove a scattare le foto sono proprio i cani, sono foto che ci restituiscono un mondo visto dagli occhi dei cani, un mondo fatto di scorci e prospettive differenti, di zampe su asfalto, di sfocature e angolazioni che raccontano storie e odori, corse e desideri, ostacoli e ombre. Un libro che, come sottolinea Roberto Marchesini nella prefazione, ci proietta nel postumanismo contemporaneo. I proventi del libro, che consigliamo caldamente, vanno a sostenere La Collina dei Cani, che è un progetto unico, fortemente in controtendenza, nato nel cuore della Sicilia, in una zona dove i cani sono spesso abbandonati, dimenticati, maltrattati, dove le poche strutture istituzionali sono fatiscenti e gli addetti sono poco competenti. La Collina dei Cani, soprattutto, è un luogo decisamente in controtendenza rispetto all'ideologia e all'architettura del canile, un primo e decisivo passo verso il suo superamento. È un luogo nell'entroterra siciliano siciliano che tra olivi, carrubi e vegetazione selvatica si sta trasformando in un vero e proprio parco di interazione tra umani e animali. Scatti da cane, il libro fotografico di Maria Mezzasalma, ha un formato di centimetri 21x21, a circa 100 pagine, e contiene numerose foto a colori. I testi sono in italiano e in inglese e ogni foto è corredata da una didascalia con il titolo, il luogo e il nome del cane che, con l'apposito collare, l'ha realizzata. È un libro autoprodotto, a un costo di 12 euro e può essere richiesto contattando direttamente l'autrice alla mail maria.dogwalk@gmail.com. Abbiamo chiesto direttamente a Maria Mezzasalma di parlarci di questa sua particolare pubblicazione, di spiegarci come le è venuta in mente l'idea e come è riuscita a realizzarla. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. L'idea di far scattare le foto ai cani nasce innanzitutto da un insieme di elementi che nel corso degli anni ha dato vita a scatti da cane. Questi elementi si mescolano insieme grazie all'unione anni fa tra me e Coco, un cane che mi ha letteralmente stravolto la vita. Abbiamo vissuto insieme 12 anni, abbiamo imparato a conoscerci nelle nostre diversità, di specie, certo, e tutto questo non ha fatto che portarci ad una ricchezza nella relazione e nella nostra amicizia, e soprattutto ho imparato ad amarlo così com'era, senza cercare di cambiarlo. Ero innamoratissima del suo essere cane, ero attratta da quello che faceva e come lo faceva, insomma di come vedeva il mondo. Mi ha insegnato a rispettare l'altro e a valorizzare altri punti di vista. Sì, Cocco e le sue prospettive. Come scrivo nel libro, questo progetto nasce dal desiderio di narrare la nostra storia attraverso i suoi occhi. Questa storia nasce, si intreccia e si combina con la mia grande passione per l'arte. Ma come farlo? Come dare vita ad un progetto che fosse realmente di entrambi? Ho studiato tantissimi anni fa belle arti, dedicandomi alla pittura e alla fotografia. Ed è proprio grazie alla fotografia che Cocco racconta e fa rivivere le emozioni delle sue passeggiate, delle sue corse, delle interazioni. È uno sguardo tramite una macchina fotografica legata al collare del cane. Tutto ciò che ci circonda ha tutto un altro aspetto, se chi osserva è proprio il cane. Sono immagini suggestive che ci portano ad una prospettiva insolita da cui osservare il mondo. Il progetto prende vita nel 2011 e diventa itinerante viaggiando per tutta l'Italia. Firenze, Cagliari, Bologna, Senigallia, Ragusa, Mondragone sono solo alcune città che hanno ospitato la nostra mostra Scatti da Cane, e l'abbiamo fatto sia in luoghi privati che in luoghi pubblici, così da poter raggiungere più persone possibile e non far mai dimenticare che l'altro nella sua diversità è una ricchezza assoluta. Thank you. Abbiamo parlato nelle puntate scorse del trasferimento dei mufloni dell'isola del Giglio che sono stati bollati come nocivi e quindi condannati a morte o, per grazia ricevuta, destinati a essere separati e diventare dei profughi dopo uno scioccante trasferimento in qualche piccolo parco disposto ad accoglierli. Un altro esempio di pessima gestione della fauna ci viene dalla Namibia, dove invece dei mufloni a essere stati catturati e trasferiti sono stati ben 22 elefanti, prima messi all'asta come se fossero merce e poi deportati negli Emirati Arabi Uniti. La notizia, diffusa dal giornale Namibian, che ha pubblicato l'immagine disturbantissima di un elefante mentre viene issato da una gru legato per le zampe, che ricorda certi quadri fiamminghi che rappresentano i fagiani vittime della caccia, ha suscitato forti polemiche nell'ambito delle associazioni che si occupano di salvaguardia animale. Anche perché, stando a quanto dichiarato, i pachidermi sono stati messi a disposizione dallo stesso Ministero dell'Ambiente, delle Foreste e del Turismo del paese africano. I 22 elefanti sono stati catturati nell'area di Kamanjab per essere poi regolarmente consegnati a chi si è aggiudicato l'asta. Vogliamo chiarire, ha sostenuto il ministro, che tutti gli elefanti battuti sono stati venduti a offerenti namibiani. L'esportazione successiva fuori dal paese non è stata una decisione del ministero. Gli aggiudicatari hanno la piena proprietà degli animali e comunque nessuna legge è stata violata. Gli incidenti con i pachidermi purtroppo sono frequenti. Dal 2019 al 2021 si sono registrati 960 casi di danni alle colture e di questi 923 sono stati causati dagli elefanti. Da qui la decisione di diminuire il numero dei pachidermi. In due anni, oltre alle colture, ha continuato il ministro, abbiamo perso anche 4 persone morte a causa degli elefanti, che hanno significato notevoli risarcimenti a favore dei familiari. Per concludere, un incredibile paradosso. I fondi generati dalle aste saranno investiti nella conservazione della fauna selvatica. Se non fosse una notizia accertata, ci sembrerebbe la parodia di una notizia. La stazione radio stamattina vive in una grande agitazione. Per un grave fatto si indovina, sono tutti in apprensione. Ingegneri tecnici ed attori stanno muti a udire l'annunciato che fa bello ai radioascoltatori con la voce scossa dal tremore. Chiudiamo con una notizia riguardante la regione Abruzzo. È stato catturato a Roccaraso Juan Carrito, un orsetto di circa 2 anni, figlio di mamma orsa Amarena, colpevole di essere confidente. Per questo, secondo le autorità, deve essere riabilitato, quindi l'orso è stato messo in una specie di riformatorio, un recinto nell'area faunistica di Palena, in provincia di Chieti. Le colpe che gli vengono attribuite consistono quindi nel frequentare il centro abitato anche in pieno giorno, nell'alimentazione costituita da rifiuti, nell'assenza ormai consolidata di timore nei confronti dell'uomo e anche nell'esibizione di comportamenti di interazione con i cani. Infatti è stato visto giocare con dei cani. Queste sono le variabili che di solito vengono monitorate per valutare un intervento sugli orsi. Di parere diverso è il WWF, che definisce questa situazione una triste tappa. Leggiamo una parte del lungo comunicato del WWF. Abbiamo visto in questi mesi comportamenti profondamente sbagliati che non hanno fatto altro che rendere sempre più confidente Juan Carrito. La mancanza di misure di prevenzione basilari, come i cassonetti anti-orso, il ripetuto abbandono di cibo in strada, il continuo rincorrere l'orso anche con i cani a seguito, sono tutti comportamenti che da anni si raccomanda di evitare e che invece si sono ripetuti per mesi senza alcuna sanzione. Questo è quanto evidenzia il WWF. È necessario che per il futuro si lavori con molta più convinzione alla prevenzione, così come alla repressione di quei comportamenti che mettono a rischio l'orso ma anche l'uomo. Rischiare di perdere un giovane orso marsicano, sottraendolo alla sua vita naturale per rinchiuderlo in un'area faunistica, a causa di mancate azioni di prevenzione da parte degli enti competenti, è un atto gravissimo per la conservazione della specie. L'orso o lo vogliamo o non lo vogliamo, dichiara Dante Caserta, vicepresidente del WWF Italia. Se diciamo di volerlo, allora dobbiamo fare tutto perché possa frequentare in maniera sicura e naturale i nostri territori, senza farne un animale da circo, attratto nei paesi affinché i turisti possano fotografarlo con i telefonini. altrimenti significa che non lo vogliamo. Bisogna ricordare che stiamo parlando di una specie presente solo in questo territorio, conclude l'associazione, e che si stima conti appena una sessantina di individui. Perderne anche solo uno sarebbe un duro colpo alla possibilità di salvezza dall'estinzione della popolazione. Per concludere la puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta che celebri il nostro primo decennale. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Per celebrare i 10 anni della nostra cara trasmissione non vi racconterò una ricetta, ma citando lo chef tedesco Heinz Beck che dice «Cucina non è mangiare, è molto, molto di più. Cucina è poesia». Quindi vi reciterò una poesia di un bravissimo attore, autore, sceneggiatore, poeta, regista italiano che tanto amava la cucina. Spero che perdonerete il mio romanesco. Sacrilegio di Aldo Fabrizi. Oggi si pranza in piedi in ogni sito. E il vecchio tavolino apparecchiato, che pareva un altare consacrato, non s'usa più. La prescia l'ha abolito. Una volta il pranzo somigliava a un rito. T'accomodavi placido e beato, aprivi la salvietta di bucato, un grazie a Cristo e poi buon appetito. Mo non c'è tempo di mettersi a sede. La gente ha perso la cristianità e magna senza amore e senza fede. È proprio un sacrilegio. Invece io, quando mi piazzo a sede per magnà, sento che esiste veramente Dio. Tanti auguri, restiamo animali. 10, 100, 1000 di questi anni. Star. I wanna be a radio star. Beyond the covers of the magazines, all in feathers blue so glittery. To have your stand and say ti amo, dico amo. What a pleasure being a rock star in Italy. Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 633 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.